Chissà se mi succede qualcosa dentro o se ho qualcosa che mi cresce dentro, che mi viene quella cosa tutte le settimane. Quando è stata l'ultima volta? Lunedì di Pentecoste, sì. Appena 3 settimane. Bisognerebbe che andassi dal dottore. Sarebbe come prima di sposarmi, quando avevo quella roba bianca che mi veniva fuori e Floyd mi fece andare da quel vecchio malvone del dottor Collins, Malattie delle donne, in Pembroke Road. La sua vagina la chiamava, e dico che era così che si era comprato tutti quegli specchi dorati e tappeti, a forza di infinocchiare tutte quelle riccone di Stephen's Green che correvano da lui per la minima buggerata. La sua vagina, la sua colcincina. Hanno i soldi e così hanno sempre ragione loro. Non lo sposerei neanche se fosse l'ultimo uomo al mondo. E poi hanno qualcosa di curioso i loro ragazzi, sempre a odorare da tutte le parti quelle sporcaccione. Mi chiedeva se quel che facevo aveva cattivo odore e che voleva che facessi se non quello, oro forse. Che razza di domande! Se gliela spalmavo un po' dappertutto su quel viso vecchio, tutto rughe, coi miei complimenti, avrebbe capito allora. La passa bene? Passa che cosa? Da come ne parlava, pensavo parlasse della rocca di Gibilterra. A proposito, è una bella invenzione davvero, però. Dopo mi piace lasciarmi andare giù nella tazza, forzando il più possibile, poi tirare la catena per annaffiarlo bene, punture di spillo ghiaccio. Però l'altro sistema ha i suoi vantaggi. Sapevo sempre da come la faceva Millie da bambina, se aveva i vermi o no. Però dargli dei soldi lo stesso. Quant'è, dottore? Prego, una guinea? E mi chiedeva se avevo omissioni di frequente. Ma dove le vanno a cercare quelle parole, quei parrucconi, omissioni, con quegli occhi da miope che mi teneva addosso di traverso? Non mi sarei fidata a farmi dare del cloroformio, Dio sa cos'altro. Però mi piaceva, quando si è messo a sedere e a scriver tutto così serio, accigliato, naso così intelligente. Al diavolo, brutto bugiardo. Oh, tutto quel che si vuole, meno che un idiota. Era abbastanza sveglio da accorgersene via. Dipendeva tutto dal pensare a lui e alle sue lettere pazze. Stellina mia, tutto quel che riguarda il tuo splendido corpo, tutto sottolineato, che vien di là, è una cosa di bellezza e di gioia per l'eternità. Qualcosa che ha trovato in qualcuno dei suoi stupidi libri. Io sempre alle prese 4-5 volte al giorno. E gli dicevo di no, è sicura. Oh sì, dissi, sono sicurissima. In un certo senso gli tappai la bocca. Sapevo quel che stava per venire, debolezza naturale e basta. Fu lui che mi eccitò, non so come, la primissima sera che ci incontrammo, quando abitavo a Rehoboth Terrace. Si rimase in piedi a guardarci per almeno 10 minuti, come se ci fossimo già incontrati da qualche parte. Credo per via che ero ebrea, ho preso da mamma. Mi divertiva allora, le cose che diceva con quel suo sorriso indolente, e tutti i Doyle dicevano che si sarebbe portato deputato. Oh, scema nata che non ero altro a credere a tutte quelle sue chiacchiere sull'autonomia irlandese e l'unione nazionale. Mi mandò quella barba di romanza degli Ugonotti da cantare in francese, perché faceva più fino. Au beau pays de la Touraine. Non l'ho mai cantata neppure una volta. Un sacco di spiegazioni e filastrocche sulla religione e la persecuzione. Non ti fa goder nulla, naturalmente. E poi poteva egli, solo alla prima occasione, in via di favore che gli capitava a Brighton Square, corse nella mia camera da letto, facendo finta di essersi macchiato le mani con dell'inchiostro per lavarsele con quel sapone allo zolfo e latte d'albione che allora usavo. Era ancora dentro l'involucro trasparente. Oh, schiantai da ridere quel giorno, a pensarci. È meglio che non ci faccia una seduta fino al mattino su questo affare. Dovrebbero far dei vasi di dimensioni naturali, in modo che una donna ci possa sedere sopra comodamente. Lui si inginocchia per farlo. Io dico che non c'è in tutto il mondo un altro che abbia le sue abitudini. Guarda quel modo che ha di dormire ai piedi del letto. Come fa? Senza un capezzale duro. Meno male che non tira calci, se no mi farebbe saltare tutti i denti. Respira con la mano sul naso come quel dio indiano che mi portò a vedere una domenica piovosa al museo di Kildare Street. Tutto giallo, con un grembiulino, steso sul fianco, appoggiato a una mano, con le dita dei piedi fuori. che lui diceva era una religione più grande di quella degli ebrei e di nostro Signore messe insieme in tutta l'Asia. Lo imita, come è sua abitudine di imitare tutti. Credo che anche lui dormisse con la testa ai piedi del letto, con quelle piotte squadrate in bocca alla moglie. Che sudiceria. Comunque, dove ho messo quelle pezze? Ah, sì, lo so. Speriamo che l'armadio non scricchioli. Ah, lo sapevo, lui dorme sodo. Si deve essere divertito. Gli deve aver fatto spendere bene il suo denaro. Naturalmente mica l'ha avuta gratis. Oh, che scocciatura. Spero ci sia riserbato qualcosa di meglio nell'altro mondo a legarci tutte così. Dio ci scampi e liberi, per stanotte va bene così. E adesso il vecchio letto bozzoloso e tintinnante. Mi ricorda sempre il vecchio Cohen. Ci si deve essere grattato spesso dentro. E lui crede che papà l'ha comprato da Lord Napier, che io ammiravo da ragazzina, perché gli avevo detto: pianino, piano. Oh, come si sta bene a letto. Ci risiamo, come al solito, dopo 16 anni. Quante case saremo stati? Raymond Terrace, Ontario Terrace, Lombard Street e Hall Street. E lui se ne va in giro fischiettando ogni volta che si deve sloggiare, sempre quegli ugonotti o la marcia delle ranocchie, facendo finta di aiutare gli uomini con quei 4 stecchi di mobili che abbiamo. E poi il City Arms Hotel. Di peggio in peggio. Dice il prevosto Daly, quel posticino delizioso sul pianerottolo, sempre qualcuno dentro a pregare. Poi tutti si lasciavano dietro tutte le loro puzze. Si sa sempre chi c'è stato per ultimo. Ogni volta che comincia ad andar meglio, succede sempre qualcosa. O lui fa qualche gaff da Tom, e da Eli, e da Mr. Cuff, e da Dreamy. O ci manca poco non lo caccino in prigione per quella storia dei biglietti della lotteria, che dovevano essere la nostra salvezza. Oppure va e fa lo strafottente. Ci mancherà poco che lo cacceranno fuori dal Freeman, come al solito, per via di quelli del Sinn Féin o i massoni. Poi si vedrà se quell'omino che lui mi ha mostrato, tutto gocciolante sotto la pioggia, solo solo, dalle parti di qua di Slane, sarà lì a consolarlo, che lui dice che è tanto capace, è un così buon irlandese. E deve esserlo, a giudicare dalla bontà dei pantaloni che gli ho visto addosso. Aspetta, ecco le campane di San Giorgio. Aspetta, 3 quarti. Attenzione, l'uno, le due. Che bell'ora per tornare a casa e saltare la ringhiera. Se qualcuno l'avesse visto. Gliela faccio passare io l'abitudine domani. Prima cosa, gli voglio guardare la camicia. Oppure vedere se ha sempre quel preservativo nel portafoglio. Credo che lui pensi che io non conosca i traditori. Non gli bastano 20 tasche per tutte le loro bugie. Allora perché dovremmo dirglielo? Anche se è vero, non ti credono. Poi è rimboccato a letto, come quei bambini del capolavoro di Aristocrate che mi portò quell'altra volta. Come se non ne avessimo abbastanza nella vita reale, senza bisogno di un qualsiasi vecchio Aristocrate o come diavolo si chiama per schifarvi ancor di più con quelle sporche figure. Bambini con 2 teste, senza gambe. Ecco le turpitudini cui pensano tutto il giorno, senza nient'altro, in quelle loro teste vuote. Dovrebbero dargli un veleno lento a una buona metà di loro. E poi tè e crostini imburrati da tutte e due le parti per lui, e uova di giornata, credo. E io non sono più nessuno. Quando non mi lasciai leccare in Holles Street una notte, uomo, uomo tiranno, come sempre. Per prima cosa dormì sul pavimento, metà della notte, nudo come fanno gli ebrei quando muore qualcuno dei loro. E non volle la colazione, né aprì bocca. Voleva essere coccolato, così pensai che avevo tenuto duro abbastanza e lo lasciai fare. Lo fa male, oltretutto, pensa solo al suo piacere. Lingua troppo piatta, o non so che cosa. Dimentica che noi allora, io no. Se sta attento glielo faccio fare un'altra volta. E lo rinchiudo giù in cantina a dormire con gli scarafaggi. Mi domando se era lei, Josie, fuori di sé dalla gioia, con quei miei vestiti smessi. E poi un tal bugiardo matricolato. No, non avrebbe mai il coraggio con una donna sposata. È perciò che vuole che io e Boylan. Però, quanto al suo Dennis, come lei lo chiama, quello spaventapasseri dall'aria desolata, non c'è da chiamarlo un marito. Sì, è con qualche puttanella che si è messo. Anche quel giorno che ero con lui, Emilia, alle corse del college, quel Hornblower con quel berretto da bambino sulla zucca ci fece entrare di straforo. Faceva l'occhio di triglia a quelle due che taccheggiavano su e giù. Prima provai a fargli cenno, inutile naturalmente, e in questo modo van via i soldi. Ecco i frutti di Mr. Paddy Dignam. Se erano tutti in grande stile al funerale solenne sul giornale che ha portato Boylan. Dovrebbero vedere il funerale di un vero ufficiale. Quello sì. Fucili capovolti, tamburi velati, il povero cavallo che viene dietro tutto in nero. Elle Boom e Tom Kernan. Quel bottazzino ubriacone che si morse un pezzo di lingua cascando giù dalle scale del WC per uomini. Ubriaco in qualche posto, non ricordo dove. E Martin Cunningham. E i due Dedalus, il marito di Fanny McCoy, testa di cavolo bianca, quella Alice con gli occhi torti che cerca di cantare le mie romanze. Bisognerebbe che nascesse un'altra volta. E quel vecchio vestito verde con quella scollatura. Già non li può attirare in nessun altro modo. Una voce da far venire la pelle d'oca. Ora ci vedo chiaro nella questione. E questo loro lo chiamano essere amici. Si ammazzano e poi si seppelliscono reciprocamente. E tutti hanno moglie e bambini a casa, soprattutto poi Jack Power, che mantiene quella barista. Certo, la mantiene, sì, certo. Sua moglie è sempre ammalata, o sta per ammalarsi, o si sta rimettendo. E lui è ancora un bell'uomo, per quanto abbia già un po' di grigio alle tempie. Sono una bella combriccola tutti quanti, però mio marito non lo riacchiapperanno se ci sono io. E poi lo pigliano per il bavero, dietro le spalle. Lo so benissimo. Quando va avanti con quelle idiozie, perché ha abbastanza buon senso per non buttar via nelle loro sentine ogni penny che guadagna. E pensa alla moglie, alla famiglia. Buoni a nulla. Povero Paddy Dignam, però. In un certo senso mi dispiace per lui. Che faranno sua moglie e i 5 figli? A meno che fosse assicurato. Burattino ridicolo. Sempre fisso in qualche angolo di bar. E lei o il figlio ad aspettare. Bill Bailey, quando te ne torni a casa? Le gramaglie non le doneranno di certo, però sta benissimo se una è carina. Che uomini. Lui non era mica. Sì, era al pranzo Glencry. E Ben Dollard, basso barilottolo, la sera che prese a prestito il coda di rondine per cantarci in Holles Street, strizzato e schiacciato là dentro, con un bel sorrisone su quel viso di bambolone, come il cullino d'un bambino sculacciato di santa ragione. Che faccia di coglione! Deve essere stato un bello spettacolo sulla scena. Figurati pagar 5 scellini dei posti preservati per vedere lui trotterellar via con quei pantaloni. E poi Simon Dedalus, anche lui arrivava sempre mezzo sbronzo. Cantava per prima la seconda strofa. Il vecchio amore e il nuovo era nel suo repertorio. Dolce cantava la fanciulla del bianco spin sul ramo. Era sempre pronto a fare il pollo. Poi, quando cantai con lui Maritana al concerto privato da Freddie Meyer, aveva una voce formidabile, gradevolissima. Oh, Febe mia cara, addio, dolce amor, dolce amor. La cantava non come Bartel d'Arcy. Dolce amor, addio. Però era solo un dono di natura, quella voce. Non c'era arte, ti veniva addosso come una doccia calda. Oh, Maritana, fiore selvaggio, cantammo magnificamente, però era un po' alta per il mio registro, benché trascritta, e lui era sposato a quel tempo con May Goulding, ma dicevo faceva sempre qualcosa che rovinava tutto. Ora è vedovo. Chissà che tipo è il figlio. Dice che scrive e che farà il professore di italiano all'università. E io devo prendere lezioni. A cosa mira adesso? Fargli vedere la mia fotografia? Non è una delle migliori. Avrei dovuto posare drappeggiata, è sempre di moda. Però sembro giovane lì. Chissà, poteva addirittura regalargliela. E anche me, dopo tutto, perché no? Lo vidi che andava in carrozza alla stazione di Kingsbridge col padre e la madre. Io ero in lutto. Ora sono 11 anni, sì. Lui doveva avere 11 anni. Che bisogno c'era di prendere il lutto per uno che non era proprio nulla per noi? Il primo grido mi bastò. Perché sentì la testa di morto ticchettare nel muro. E lui a insistere, si metterebbe in lutto anche per il gatto, direi. Ora deve essere un uomo fatto. A quell'epoca era un ragazzo innocente e un bel figliolo con quel vestito da Lord Fauntleroy e i capelli a ricciolini come un principino azzurro. Anche quando lo vidi da Matt Dillon, so che gli ero piaciuta, mi ricordo, a tutti piaccio. Perbacco, sì, aspetta, sì, un momento, parlavano di lui le carte stamattina. Quando ho fatto l'oroscopo, unione con un giovane estraneo, né bruno né biondo, già conosciuto prima. Credevo che volesse dire lui, ma lui non è un pulcino e neanche un estraneo. E poi avevo il viso voltato dall'altra parte. Qual era la settima carta dopo quella, il 10 di picche? Un viaggio via terra. Dopo c'era una lettera in arrivo e poi qualche maldicenza, le 3 regine e l'8 di quadri, successo nel bel mondo. Sì, un attimo, è uscito tutto. E i 2 otto rossi, vestiti nuovi. Guardate un po', non ho sognato. Anche qualche altra cosa, sì, c'era anche qualcosa sulla poesia. Spero che non abbia lunghi capelli unti sugli occhi o tutti ritti come un pelle rossa. Perché mi vanno in giro in quel modo, solo per farsi ridere dietro loro e la loro poesia? Mi è sempre piaciuta la poesia da ragazzina. Dapprima pensavo che lui fosse un poeta come Byron. Ma non ce n'era nemmeno un briciolo in lui. Me l'immaginavo in tutt'altro modo. Mi domando se non è troppo giovane. Ne deve avere, guardiamo, 88. Mi sono sposata nell'88. 1000 compiuti 15 ieri. 89. Che età aveva al tempo dei Dillon? 5-6 anni circa. 88. Ora direi ne debba aver 20, o forse di più. Non sono troppo vecchia per lui, se ne ha 23 o 24. Spero che non sia il solito tipo di studente universitario che si dà arie. No, altrimenti non sarebbe sceso con lui nella vecchia cucina a prendere il cacao Eps e a chiacchierare. Naturalmente faceva finta di capir tutto. Probabilmente gli ha detto che era di Trinity College. È molto giovane per essere professore. Speriamo non sia professore come Goodwin era professore diplomato in Libagioni. Scrivono tutti di qualche donna nelle loro poesie. Beh, credo che non ne troverà molte come me. Dove dolce sospira d'amore la lieve chitarra. Dove la poesia è nell'aria. L'azzurro mare, la luna che brilla si bella. Tornando indietro con l'ultimo vaporetto da tariffa, il faro alla punta d'Europa. La chitarra, con che sentimento la suonava quel tale? Forse mai più ci tornerò. Tutte facce nuove. 2 fulgidi occhi celava l'inferriata. La canterò per lui. Sono i miei occhi, se è un poeta sul serio. 2 fulgidi occhi neri come d'amor la stella. Sono proprio belle quelle parole. Come d'amor la giovin stella. Sarebbe un bel cambiamento, lo sai Dio, avere una persona intelligente per parlare di se stessi, non doverlo star sempre a sentire. E l'annuncio di Billy Prescott e quello di Kiss e quello del diavolo in corpo. E poi se va male qualcosa negli affari, la scontiamo noi. Sono sicura che è molto distinto. Mi piacerebbe incontrare un uomo così. Dio, mica come quegli altri soliti. E poi è giovane, quei bei giovanotti che vedevo ai bagni di Margate dall'altra parte della scogliera, in piedi, sotto il sole, nudi come dei o roba del genere. E poi tuffarsi in mare con loro, perché tutti gli uomini non sono così, ci sarebbe un po' di consolazione per una donna, come quella bella statuina che ha comprato. La stavo a guardare tutto il santo giorno. Bella testa di riccioli lunghi e le spalle, il dito alzato perché si stia a sentire. Ecco la vera bellezza e poesia. Ho avuto spesso voglia di baciarlo dappertutto. Anche l'uccellino così innocente. Mi piacerebbe prenderlo in bocca se non ci fosse nessuno a guardare. Pare ti chieda di essere succhiato. Sembra così pulito e bianco, con quella faccia da bambino. E lo farei in mezzo minuto. Anche se me ne andasse giù un po', beh, è come se un mulino d'avena o rugiada. Non c'è nessun pericolo. E poi è tanto pulito in confronto a quei porci degli uomini. Io dico che non ci pensano neanche a lavarselo da un capo all'altro dell'anno, la maggior parte. Soltanto è questo che fa venire i baffi alle donne. Sono sicura sarebbe una gran cosa se mi mettessi con un bel poeta giovane alla mia età. La prima cosa, domattina, butterò giù le carte per vedere se viene fuori quella del desiderio. Cercherò di apparigliare la donna e vedere se viene fuori lui. Leggerò e imparerò tutto quel che mi capita e ne imparerò un pochino a memoria, se sapessi chi gli piace. Così non mi prenderebbe per stupida, se crede che tutte le donne sono uguali. E io posso insegnargli il resto. Lo farò godere dalla testa ai piedi fin quasi a svenirmi sotto. Scriverà su di me, amante e amica pubblicamente, anche con le nostre due fotografie su tutti i giornali, quando diventerà celebre. Oh, ma con quell'altro allora come faccio?